Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, sono le 21 passate da 4 minuti, questa è la vostra emittente preferita in questo momento, ovviamente. Si chiama Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino che vi sta facendo compagnia assieme, e vi farà compagnia assieme a Maurizio, ovviamente, questa serata così particolare, così bella, così piena di musica, come sempre quando c'è il live nei nostri studi, ovviamente. Questa sera abbiamo i Fragile Vida, però prima di presentarveli vi voglio ricordare che questa appunto è la vostra emittente preferita, Blu Radio Veneto, le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. I nostri numeri telefonici, quello in studio, è lo 049 8756423, mentre per quanto riguarda gli sms, se volete mandare qualcosa qui a questa band di questa sera, vi ricordo il 346 23 20 033, il nostro sito www.bluradioveneto.it, le nostre pagine su Facebook, ovviamente Blu Radio Veneto semplicemente, oppure bluradioveneto.rockwave, che è la pagina curata specialmente sulla musica rock, gestita, diciamo così, dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco. Assieme, anzi, io sono assieme a lui questa sera perché è un compagno fedele ormai di tante trasmissioni, è Maurizio Calzavare, ciao. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Abbiamo, dicevo, i Fragile Vida. Sì, con... Fragile Vida, che è un gruppo in provincia di Modena, non mi ricordo mai, Davide, dove provieni esattamente? Innanzitutto Finale Emilia. Da Finale Emilia, ciao. Perfetto. Ciao, ciao Maurizio, ciao Agostino. Ciao. Avete ciao, fatto ciao. Un buon viaggio, sì. Benvenuti. Assolutamente. Non ci sono stati problemi di tutto traffico. Perfetto. Tutto. Poi lui ha portato un ukulele e adesso sta facendo un grande successo in tutto il mondo. Siamo arrivati in volo con l'ukulele. Benissimo. Il nuovo album si chiama Giorni Sospesi. Noi ci siamo visti un po' di anni fa con l'album precedente. E secondo me, rispetto all'album precedente, avete allargato ancora di più. Devo parlare con te. Allargato ancora di più il discorso. Prima di allargare, ci presentiamo però. Strumenti e... Certo. Dai. Allora, questa sera abbiamo qui con noi Diego Gavioli alle chitarre e all'ukulele. È una posizione strategica proprio. Assolutamente. Perfettamente. Pronto per scappare fuori dalla porta. Benissimo. Poi abbiamo David alle tastiere. Con una nuova tastiera, mi diceva. È una nuovissima. New entry assoluta. Assolutamente. Fiammante e naturalmente anche alla voce, e poi ci sono io, Gianluca, che sono la voce recitante. Sì, poi praticamente colleghi tutto quanto, possiamo dire questo. Esatto. Mm. A casa sono rimasti Daniele, il batterista, che salutiamo. È rimasto bloccato perché sta facendo una zatterata che parte da Finale Emilia e arriva a Modena, su Panaro. Cioè, cosa significa zatterata? La zatterata, da noi periodicamente... lui lo sa, ride, e lui lo sa, Agostino lo sa. Sono delle gare fatte con delle zattere inventate sul posto. Ah, ho capito. Ed è molto divertente, lui sta portando avanti questo progetto artistico, creativo, perché dopo noi ad agosto di quest'altro anno ci suoneremo sopra. Bellissimo. Anche. Molto divertente. E poi Francesco Boni invece al basso. Che l'ha lasciato a casa anche lui. Che abbiamo lasciato a casa anche lui. Lui sull'argine che spinge la data. Beh, come si dice, tre è il gruppo perfetto, no? I Cream erano in tre, quindi tre è il gruppo esatto. perfetto. Infatti qui c'è veramente il succo, il cuore e la polpa, nel senso che, no, adesso a parte gli scherzi, il progetto comunque, la cosa... che in questi 11 anni ci sta portando avanti è comunque diciamo la coralità creativa, nel senso che non c'è un leader, non c'è niente di che, il lavoro creativo, compositivo è fatto più o meno da tutti. Diciamo le schegge iniziali sono date probabilmente dai testi miei di David o comunque da riff iniziali di Diego, soprattutto Francesco al basso. Da qui il gioco parte insieme. La cosa che differenzia secondo me diciamo il nostro progetto è questo musica e teatro, che molte volte magari si ha paura che venga sventolato così per niente, invece secondo me il musica e teatro non è solo dato al fatto che nel nostro live c'è la componente teatrale che rappresenta o che diverte o che fa. La musica e teatro secondo me è molto presente anche nel nostro modo di lavorare, soprattutto nei presupposti che riguardano un po' diciamo i progetti del CD in sé. Il CD in sé, diciamo, è un progetto corale che comunque ha dei punti di riferimento soprattutto nelle tematiche e anche diciamo come corrente musicale. Questa è la caratteristica di Giorni Sospesi, che è stato per esempio registrato in analogico. Questo è importante, questo è molto importante. Come mai in analogico? Ma guarda, l'idea è partita, se mi posso permettere Diego di citarti, è partita soprattutto da Diego. Diego, diciamo nell'embrione del progetto, Diego a un certo momento ha fatto notare che dopo l'album rosso, molto curato, con sovraincisioni, con tutto, Diego ha detto... Ma perché non stiamo un pochino più sul rude, cioè più sul ruvido, scusa, non rude, nel senso proprio di secco, schietto, perché poi alla fine le critiche che venivano mosse è che era difficile diciamo percepire il live ascoltando quello che noi facevamo. Sì, una cosa che sicuramente Diego ha notato è stata questa, il fatto che insomma a un certo momento... I nostri live sono così, è logico che non si può vedere quello che succede, però allo stesso momento avviciniamoci musicalmente a quello che succede veramente, anche perché noi siamo così, certo. Nel senso che siamo comunque, è un gruppo di pancia il nostro, nel senso che sicuramente ci sono presupposti, poi parleremo anche delle tematiche dell'album. Però a un certo momento, quando noi abbiamo, diciamo, il presupposto, e questa è la parte teatrale di cui ti parlavo, quando tu hai i presupposti, hai da dove stai partendo, dove vuoi arrivare, sai che i paletti sono le tematiche, le cose, i giochi, di conseguenza tutto viene da sé, noi ci molliamo e andiamo. Tu hai detto una forma di canovaccio. Tu hai detto giustamente il teatro, che un pandan, un trade union con la musica, ma possiamo dire che è arrivata la nostra Chiara, la nostra fotografa. Oh, buonasera. Salutiamo. Anch'io sono fotografo. Perfetto. Abbiamo due fotografi. Sì. Però io non sono armato. Ok. No, dicevo, musicalmente, il vostro album, abbiamo parlato di teatro, però musicalmente ha tante facce. Si parla, si comincia con la bossa nova, per esempio. Certo. Si passa al jazz. C'è un pizzico di psichedelia, secondo me. Chiaro. Anche. C'è del rock, c'è della musica cantautorale. Un po' di tutto. Sai cos'è la differenza che fa dei nostri album precedenti? È che abbiamo un pochino ripreso tutto quelle che sono le nostre culture di conoscenza, nel senso che soprattutto i ragazzi musicalmente si sono mossi in varie con le loro preferenze e i loro studi. E abbiamo mescolato un po' tutto in funzione di quello che si voleva arrivare. E infatti il gioco dei Giorni Sospesi è legato molto al beneficio del dubbio. Ho capito. Il beneficio del dubbio. Quindi il beneficio del dubbio, le tante facce sono il beneficio del dubbio. Sì, le tante facce diciamo che servono ad amplificare i vari capitoli. Nel senso che a un certo momento... Il beneficio del dubbio in che senso? Sì. Nel senso che a un certo momento tu arrivi, noi abbiamo 38 anni, 35, 34, dopo che abbiamo passato l'amore, il viaggio, che erano le tematiche particolari, diciamo, di tutti i vari album precedenti, siamo arrivati a questo, dove a un certo momento, anche un po' per la situazione storica probabilmente, abbiamo visto in comune, non è che ci siamo dati il tema, che sia ben chiaro, è una cosa che è venuta fuori, leggendo i testi che si portavano e tutto, cosa saltava fuori? Saltava fuori questa voglia di mettersi nei panni degli altri per vedere un attimo come potrebbe essere la realtà da un altro punto di vista. Tu stai vivendo certe cose, hai delle certezze, succedono delle cose nella vita che te le fanno cadere per terra, si rompono. A un certo momento tu cosa fai? Le ridiscuti oppure vai avanti per la tua strada? Capisci? Ho capito. Cioè questo è il gioco. È il gioco che, diciamo, è risultato molto caro in fase compositiva. E da qui Giorni Sospesi, perché David ha avuto la bella idea dal pezzo Giorno Sospeso, David ha detto perché non facciamo diventare Giorni Sospesi, tanti capitoli sospesi. Giorno Sospeso nasce per quest'idea di fermare tutto quello che sta succedendo, tu stai andando avanti come un carro armato e a un certo punto si sospende tutto. Perfetto. Era un giorno sospeso anche era quello. Esatto, questo era l'aurea della sospensione. Ma era bella, era meraviglioso, non potevi tenerla. Bravo Agostino. Poteva andare, chiedo scusa, poteva andare. Essere. Ma guarda, mi sembrava di essere, devi toccare il cielo con un dito. Ma ci poteva essere? No, ci stava. No, ci stava, benissimo, ci stava. Ma guarda, benissimo. Ho detto, ma guarda che bravo. Stavo prendendo le telecamere, per quello. Comunque siete in diretta attualmente in questo momento. proprio. Sei perfettamente in diretta. Gianluca, sei perfetto in diretta. Hai dato una chiave di volta ideale del disco. Adesso per aprire la finestra, come noi usiamo, sì, alle 21:13, apriamo con un pezzo da disco. Cosa avete scelto in scaletta? Ti ricordi, David? Proprio il titolo che dà il nome al CD. La title track. Giorno sospeso. Perfetto, ok, vai. Prestare paura e coraggio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Così ne approfitto anche per ricordarvi che siamo in streaming sia audio che video, quindi streaming audio, basta che andate sul nostro sito www.bluradioveneto.it e c'è un rettangolo rosa con scritto streaming sotto, cliccando sulla freccia nera sulla sinistra potete accedere alla nostra emittente 24 ore su 24 ascoltandola sempre e comunque in diretta. Mentre per quanto riguarda le webcam, cioè se volete vedere gli artisti che fanno i live, noi li accendiamo in questo caso ovviamente, basta che digitate sul vostro motore di ricerca diretta Rock Wave, tutto attaccato, e poi entrate direttamente nel sito dove potete vedere appunto le immagini che la nostra fotografa fa anche da cameraman, oltretutto è lei che le comanda. Sì, sì, Gianluca, ti stanno vedendo? Allora, facciamo una cosa per l'occasione. Facciamo una rettifica, la canzone non era. Sì, mi avete voluto fare uno scherzetto nostro. No, è che di solito facciamo ascoltare sempre una canzone dal disco. Come ecco, il primo pezzo che avete ascoltato si chiama Luoghi Comuni. E parliamo di questo pezzo, dai, sì. David. Oltre che anche avere gli altri due devono. Beh, Gianluca ha fatto la sua presentazione, però il nostro chitarrista con l'ukulele non ha detto niente fino. Luoghi Diego, Comuni. Devi parlare anche te. Qualche... No. No, Luoghi Comuni è nato da un giro di contrabbasso di Francesco. E da lì è questo ritmo un po' sudamericano, un po' samba, un po' bossa nova. Ho pensato a un testo un po' meno difficile, un po' meno intimo, e un pezzo magari tra virgolette più leggero, spensierato, su cui comunque ci stesse un ritornello importante. Come dire, allontaniamoci un attimo dai luoghi comuni per capire e vedere dentro di noi. Certo, sì, ecco. Ho capito. E perché avete scelto come questo pezzo come apertura? È stata una cosa casuale oppure è un pezzo già costruito precedentemente, guarda, doveva avere il primo posto? Per quel che mi riguarda, l'album rosso, l'album del 2008, certo. L'album omonimo Fragile Vida era partito con un pezzo un po' più riflessivo e volevamo cambiare è partire giusto. Anche perché tante volte spedisci promo alle radio, certo. Ascoltano non la vostra ascoltano, noi sentiamo voi sempre tutto quanto da nostra tradizione. Vabbè, voi ci volete bene, ecco. È una cosa a parte. Comunque tante volte capita che ascolta le prime due canzoni e poi basta. Esatto. Questa volta abbiamo deciso di partire, insomma, visto che all'interno dell'album ci sono anche momenti più canzoni, più introspettive e intime, abbiamo deciso di partire con Luoghi Comuni. Sì, giustissimamente. E parlando di radio, dobbiamo salutare e ringraziare il nostro direttore artistico che hai contattato, David, via Facebook, Alberto Prisco, che grazie la sua volontà, sua forte volontà, stasera siete qua. E salutiamo anche la Rossella, la mia fruitrice di giornali da 20 anni a questa parte. Salutiamo anche la Rossella. Ciao. Che si sta ascoltando. Bene, abbiamo fatto il percorso di inizio, la bossa nova. È un bel percorso quella bossa nova, da un movimento, cosa dite? Da molto movimento. Poi un concerto dal vivo, da movimento a chi vi sta ascoltando, assistendo al concerto, fa muovere la gente. Poi ti dirò, la parola ghiaccio che compare nel testo, sì, è un po' per romperla, no? Okay. Quindi la usiamo in questo Giorni Sospesi Tour, la stiamo usando proprio come primo pezzo del concerto. Perché i vostri live sono molto importanti, come ha detto giustamente Gianluca, perché c'è un connubio tra teatro e musica, tra esatto. musicalità esatto. e teatro, quindi e letteratura e dizione. Tu sei Lenio Clementi qua presente stasera. Possiamo dire questo, Gianluca? No, adesso non esageriamo. No, nel senso che alla fine il gioco dove sta? Sta nel creare un'atmosfera. Per noi è molto importante la scaletta, è molto importante la scaletta sia dell'album che del live. Perché? Perché a un certo momento è un gioco di atmosfera, nel senso che l'apertura fresca di Luoghi Comuni in effetti aiuta un attimo a sedersi. Certo. Poi dopo alla fine però due o tre schiaffetti li tiriamo. Immediatamente subito dopo con qualcosa di teatrale un pochino più ma non impegnativo, perché poi alla fine il gioco dei Fragile Vida è tutto sempre molto un gioco. È sempre, il gioco è un gioco, nel senso che è bello magari fare un po' del gioco del contrasto, nel senso magari un discorso impegnativo, perché poi alla fine se prendi il testo anche di Luoghi Comuni, sì, non è poi alla fine così leggero, David, che tu è messo giù in modo leggero, però alla fine chi lo ascolta si sente un attimo toccato lì, a cioè, pensare un secondo. E deve riflettere un momento. Sì, un pochettino sì, giocando però, e il gioco continua così, continua con tentando di dare, diciamo, dei tronconi di atmosfera. Uno entra nell'altro, però a un certo momento c'è una forma di accompagnare le persone dal leggero, si entra nell'intenso e poi si esplode nell'allegria. Questo deve succedere perché comunque deve avere un senso. Cioè, penso che sia fondamentale per noi, dato che ci presentiamo in un modo non strettamente solo musicale. Quindi non prettamente tradizionale, assolutamente. Sì, sì, sì, il gioco è un pochino diverso, poi dopo questo naturalmente può piacere o non piacere, noi andiamo avanti per la nostra strada, ascoltiamo, è molto bello. La cosa interessante che succede nei nostri live è questo, c'è una richiesta diretta, cioè le persone vengono anche a criticare, vengono a dire che è bello, però si permettono giustamente anche di dire ma perché lì, ma qua mi è caduto un po', capito? Danno le loro osservazioni praticamente. Sì, esatto, infatti penso che sia una cosa, una caratteristica che ha sempre seguito i nostri live, quella di riuscire ad avvicinarsi alle persone in questo modo, però non ho capito. Maurizio Costanzo che chiamava le persone comuni a parlare di niente, capito? Cioè, quando parlo di coinvolgere le persone mi intendo in questo io, perché molte volte sono stato frainteso, te l'ho detto subito per quello, non è che chiamiamo sulle persone sul palco, è giusto che ci sia un certo tipo di, perché io sono qui per dire delle cose e ho dei doveri verso chi mi sta ascoltando, sì. Questo penso è una cosa palese e sì, è così, però a un certo momento il coinvolgimento sta nel momento dove tu, chi ha voglia che io entri, lo fa, gli altri se ne vanno, non hanno voglia di farlo, non è un problema. Dopo cosa succede se io entro, dopo arrivi, ma possono anche rimanere là certo. No, te lo dico perché sì, succede, ho capito. Alcune persone non accettano il gioco, certo. Per carità, alcuni possono anche considerarlo comunque violento, per carità, perché alla fine è molto diretto, è anche una richiesta di partecipazione, cioè, difficilmente si rimane distratti lì, perché il gioco è comunque un gioco d'attenzione, io richiedo attenzione continuamente. Benissimo, visto che richiedi attenzione, adesso siamo attenti al primo pezzo live. Vai. Che farete fra qualche secondo, 21:26 in questo preciso momento. Vai, David. Assolutamente in diretta. Vai. Questa volta non sbaglio. No, adesso non sbagli. Cosa ci fate ascoltare? Questa è davvero Giorno Sospeso. Ah, ok. Blu Radio Sera. Si raffredda in un sospeso giorno. Chi ha fatto l'amore oggi non si ricorda più il baciato corpo. Il mare oggi è fermo e blu, nuotando in fretta, l'acqua si raffredda in un sospeso giorno. Il water era troppo lontano, cammino a fatica, con le mutande piene, ma non me ne vergogno. Con la mano ancora. gli rimarranno fredde. Chi inciampa lo farà con sagacia. Chi si frega le mani oggi gli rimarranno fredde. Chi inciampa lo farà con sagacia. Chi si è fermato oggi ad osservare il tramonto non ha notato niente di strano. Bellissimo, ah, posso dire bellissimo. Ancora meglio che non dal disco. Veramente. Perché io volevo sapere questo ipnotico accordo continuo della chitarra. E allora ho capito adesso, non è proprio una chitarra ukulele praticamente. Beh, molto bello, molto d'atmosfera alle 21:32. Sono stato molto soddisfatto, veramente. Bene. Molto molto bello. Difatti per niente l'ho messo su per 20 giorni consecutivi. Adesso abbiamo cambiato il pezzo, però era significativo. Mi sono subito fermato a questo, Gianluca, e c'è niente da fare. A me è piaciuto particolarmente. Mi fa molto piacere perché questo segna un po', come posso dire, è uno dei pezzi dell'album, secondo me, insieme a October, dove mette le radici su quello che noi abbiamo sempre fatto . E butta un po' l'occhio sul modo asciutto che stiamo andando avanti. Cioè, non so la nuova direzione, sì, praticamente. Sì, però comunque le radici in quello che noi abbiamo sempre fatto rimangono. A me, io ti dico, questo pezzo qui nasce sul mio testo, ma a me la cosa che è piaciuta di questo album qua è che... di questo pezzo qua è che... era nato in un modo completamente diverso e pian piano i ragazzi continuavano a chiedermi: ma alla fine parlaci, cioè, perché alla fine strideva, il testo era in un certo modo e la musica era troppo. Poi pian piano hanno iniziato a defogliare, a pulire, alla fine è rimasto, probabilmente doveva essere così il pezzo, per intenderci. L'amalgama è stata perfetta praticamente, si è proprio... E una cosa volevo chiederti, l'intervento tuo è arrivato in un momento giusto, alla fine del pezzo, perché doveva essere così. Certo, assolutamente. Decisamente. E poi un'altra cosa volevo chiederti, dal vivo lo fate in questa maniera o accelerate leggermente di più? No, diciamo che dal vivo c'è la componente basso, c'è il basso elettrico, e soprattutto ci sono le voci di Lele che fanno i cori. Il basso elettrico che funziona ha in questo pezzo? Quando all'inizio la parte introduttiva è proprio così, proprio acustica. Poi quando parte invece c'è un grande assolo di sax di Andrea. Di Andrea. E poi si imposta un po' nel finale, si scalda un po' il pezzo. Certo, ecco, e in che momento del concerto viene sistemato? Ma questo pezzo è un po' nel mezzo del concerto, se si vuole, nel momento un po' più introspettivo. Sì, ecco. Quando la gente deve stare un po' più attenta. Sì, esattamente, dopo che l'avete movimentata leggermente, allora deve... riflettere un secondo. Sì, diciamo che le nostre scalette bene o male partono abbastanza fortino all'inizio, e poi... per avere una parte un po' più intima in mezzo e alla fine grande baldoria e grande e festa. Una jam session finale comunque. Tutto quello che ho detto chiaramente cambierà dal prossimo dal prossimo è giusto che futuro sia così. Fra Silvida. Eh sì, fate come Dila che quando i musicisti, quando viene sul palco, ma è già stato notato da un sacco di gente, quando viene sul palco Dila i musicisti che lo seguono non sanno mai che cosa canta assolutamente mai che cosa canta e come la fa, se la fa in una certa maniera e inventa in continuazione. Vabbè, i musicisti di Dila sono i musicisti di Dila, ma questo non vuol dire assolutamente niente. Qualsiasi musicista avrà ha delle difficoltà se il vocalist, sì, in caso chiaro. Gianluca, cambia totalmente il discorso. Come si fa? No, no, assolutamente no. No, guarda, ti dico, quello che, a cui si riferiva probabilmente David è anche legato al fatto che molte volte la scaletta cambia anche nell'ambiente in cui suoniamo. Perché a un certo punto se è una piazzetta, se abbiamo la possibilità di utilizzare anche magari entrate diverse. Sì, abbiamo... hai fame, si puoi mangiare. Non so. No, allora spieghiamo l'aneddoto. Spieghiamo perché l'aneddoto. Lo cambia sempre. No, perché c'è un Kinder Delizio. Ma io sulla mia tastiera. Visto che ci sono le telecamere, cioè tutti sanno che sono goloso io, quindi cioè, ah, va bene. Quando ci fermiamo negli autogrill per il tour, loro mangiano il classico panino con la cotoletta e io vado sui cappuccini e brioche. Cioccolato. Ma quel cioccolato da forte, da vigore, non la cotoletta, te il cioccolato. Non sembri Emiliano in questo momento, però mangi il Kinder. No. Ma però se mi presentano un bel piatto di tortelloni con la zucca... Allora cambi idea, assolutamente. Un bel bicchiere di Albana magari. Oddio, noi a Padova abbiamo mangiato benissimo, sì. Anche qua. Sì? Siamo dei buon gustare. Diciamo. Ma cosa preferisci della cucina veneta? Visto che ci siamo, facciamo una piccola parentesi di qualche secondo. Vabbè, tortelli con le succa. Il risotto a radicchio trevigiano, scusatemi. Bene, mi pare giusto che sia così. Proporrei una cosa, ragazzi, se siete d'accordo. Ci fermiamo un secondo, sentiamo un altro pezzo da disco, che è la traccia numero che avete scelto, mi ricordo. Traccia numero 2, che numero si chiama 2. Mario Camino. Perfetto, la sentiamo e poi ne parliamo assieme, ok? Grazie. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci, siamo, ci siamo, benissimo. Ora presentiamo questo pezzo, come abbiamo detto precedentemente. Vai, vai Gianluca, lo presenti. Beh, Mario Camino è il nostro eroe. Io ti dico solo una cosa. Dimmi, dimmi. E in due scuole materne del nostro paese l'hanno usata come favola. Ripetiamo, il vostro paese qual è? Finale Emilia. Perfetto. L'hanno usata come favola per i bimbi. Bellissimo. Questa è una cosa che meravigliosa. Mi ha gonfiato il cuore. No, Mario Camino è la storia di un bimbo che a un certo momento, un bimbo che poi potrebbe essere qualsiasi cosa, a un certo momento non si diverte più perché è tutto vuoto intorno, non c'è nessuno. Allora lui decide di andare a giocare sui tetti. Bene. Gioca sulle tegole, scivola sul muschio, gioca con il fumo, aspettando che qualcuno si accorga che sarebbe più divertente fare qualcosa che invece proprio non fare proprio niente, capito? Dunque lui non vede nessuno, ma desidera amici profumati, desidera comunque condividere, dunque vive una propria solitudine creativa, aspettando che qualcuno magari abbia voglia di condividere con lui un certo modo di giocare. Questo è alla fine l'idea di Mario Camino. Ho capito. I ragazzi sono stati strepitosi perché gli hanno messo in mezzo questo e cosa, questo cosa gli hanno pezzo, costruito? Cosa gli hanno costruito i ragazzi, Gianluca? Un'energia, io la chiamo anni 70, sì. Se vuoi, proprio bella creativa. Gli anni 70 hanno voglia di aprirsi verso qualcosa. C'era questa idea del nuovo, no? Certo. Adesso per noi è assurda. Il nuovo, cioè continuano a pompare il nuovo, ma il nuovo alla fine insomma non esiste. Invece lì c'era questa idea del nuovo, però era molto più, come posso dire, embrionale, era un entusiasmo cieco, no? E qualcuno ha scritto, io condivido pienamente quello che ha scritto un critico, che è un discorso che si adombra il progressive in questo pezzo. Siete d'accordo? Sono d'accordo. Sei d'accordo al 100%? E in effetti chi ha poi tirato giù il giro del basso che non è presente di chitarra però è legato, ci sente, legato ci sente. Agli Aria del Metro Stratos, ecco, parliamo TFM, un momento di Aria, sì, tra l'altro poi Finale Emilia è famosa perché abbiamo un amico che organizza anche proprio una rassegna, un festival ad Alberone di Cento che si chiama Raffaello Regoli, lo salutiamo tra l'altro. E ci sta con i Fragile Vida anche perché suo figlio Federico ci ha aiutato a girare il nostro videoclip Luoghi Comuni, quindi salutiamo anche Federico e alla fine siamo noi finalesi una famiglia, c'è un gruppo, una famiglia di tanti artisti musicisti che ci aiutiamo l'un con l'altro per creare insomma la nostra musica, la nostra grande passione. Ritornando a Demetrio Stratos, proprio è stato molto mio padre aveva dei vinili degli Aria e quando ero piccolino non la capivo tanto, preferivo Pink Floyd, Creedence Clearwater Revival, Nick Drake, Cat Stevens, cose un po' più, diciamo, mio padre avendo la passione della musica insomma mi trasmetteva, e questo vinile degli Aria, che cos'era? È quello dove c'è tutta la gente. La gente ad un concerto, penso. Non mi ricordo il nome. Il titolo non me lo ricordo. Cioè, non è quello che dico io, ne è un altro. Beh, in ogni caso, un disco degli Aria. E comunque non la capivo quando ero adolescente. L'ho capita sui 25-26 anni. La grandezza di Demetrio. La poesia sonora di Demetrio. Fenomenale, meravigliosa. Visto che ci siamo, David, che tu hai parlato giustamente dei tuoi input musicali, lo sai che c'è una domanda che noi facciamo ogni volta che viene un artista? Sì, quella dell'Isola. Bravo, dell'Isola. Preparato. Se la ricordano tutti e tre, vedi Agostino? Sì, Agostino, tu esperti. Non c'eri all'epoca, sono venuti in Fragile Vida, però poi sei ritornato qua dentro, musicalmente parlando, hai ripreso anche te questo modo di dialogare con gli artisti, cercando di capire gli artisti, le loro direzioni musicali. Tu, David, mi hai detto due o tre, così, gli Aria, hai parlato di Creedence Clearwater Revival, hai parlato di Pink Floyd, facciamo un altro, dai, cosa? Beh, metto Pink Moon di Nick Drake. Ecco, disco meraviglioso, disco... splendido. Porterei quando sono un po' triste. Un po' riflessivo. Un po' voglia di... di starmene un po' a creare, o anche mentre lavo i piatti, o cambiare, o cambiare il pannolone, il mio bimbo Nick Drake si addormenta, certo, si addormenta va anche benissimo, lui. Va benissimo. Poi un artista che mi piace tantissimo si chiama Iron and Wine. Ah, però bene, mi fa molto piacere. L'album del cane pastore, certo, The Shepherd's Dog, e, tra l'altro l'abbiamo usato anche per aprire alcuni nostri concerti. C'è un collegamento secondo me con Nick Drake e questo musicista americano, a mio parere. Anche secondo me. C'è un piccolo legame, un legame che lega sicuramente, perché dopo concludiamo con te, abbiamo ancora Gianluca e Diego e devono dire le loro. Nick Drake è stato riscoperto da un sacco di gente, lentamente ma progressivamente. Pink Moon è stato un album sconosciuto all'epoca quando è uscito, ma lentamente ha cominciato a vendere, ma vende non solamente dal punto di vista di vendite vere e proprie, vende dal punto di vista mentale, cioè ha allargato gli orizzonti da un sacco di gente, secondo me. Hai detto una cosa che ho ascoltato un'intervista su YouTube che hanno fatto questa domanda a Tommaso dei Perturbazioni, ha detto la stessa cosa che bene, mi fa piacere. E loro si sono ispirati da Nick Drake. Benissimo, allora quindi, vai Gianluca, dopo Diego. Mettiti vicino al microfono, ok. Ma io sono legato molto sicuramente a Paolo Conte, Giorgio Gaber, Fabrizio De André. Quindi musicisti assolutamente italiani. Ma sì, no, vabbè, poi dopo è logico che Tom Waits, sicuramente. Cosa di Tom Waits, Gianluca? Ma a me sono piaciuti molto, a me piacciono molto i vecchi, perché poi dopo ho iniziato a seguirlo da ragazzotto e seguivo gli altri, non sono entrati, però me li sono goduti, non so come dire. Ho capito, sì. L'ultimo, il doppio. Sì. L'ultimo periodo di Tom Waits ti sono entrati, però non sono come Blue Valentine. Sì, esatto, esatto, esatto. Quindi è un'altra, una piccola altra cosa. Però. Sì, sì, assolutamente, però comunque la cosa bella che mi piace di Tom Waits è che comunque senti che c'è un percorso e lo sta facendo, certo, non si è fermato lì. Questo è molto, molto, come posso dire, creativamente stimolante. Sì, gli Iron and Wine sicuramente ci hanno accompagnato, per noi hanno anche è un qualcosa di sentimentale, anche insomma siamo un po' legati anche a queste cose qua. Sì, però tendenzialmente di primo io mi so che fai questa domanda, però non ci penso mai di prepararmi le cose, poi dopo ma è più istintivamente bello, esatto, istintivamente bello, mi vengono le mi vengono in mente le cose che sicuramente ascolto anche per rivitalizzare un po' quello che sta per venire fuori. Magari sto scrivendo, ascoltando De André, magari aiuta, certo, certo, ti rinfresca, sì, un po', ti apre. E a proposito di questo, abbiamo citato questo musicista, questo artista americano indie, è uscito proprio qualche settimana fa, penso la scorsa settimana, un disco di Bon Iver, lo conosce? Lo conoscete? Ho ascoltato qualcosa. Ecco, ha fatto un disco nuovo molto bello, già il precedente era molto bello, sapete che l'ha registrato in montagna, in una casa di montagna sperduta in mezzo alla neve, e ne ha fatto un altro che è uscito proprio qualche giorno fa, e anche quello è molto interessante. Molto pensavano, come fa ad arrivare a certi punti? Ed è arrivato a certi punti facendo un discorso leggermente più ampio, un arrangiamento più corposo. Il precedente era proprio scheletrico, ma ha sempre questo fascino del tenebroso, della musica molto particolare, molto ricercata, ma facile ma ricercata nello stesso tempo. Grazie per il consiglio. È nuovo, è molto bello, te lo consiglio vivamente. Comunque Maurizio, se me lo chiedevi stamattina, ti rispondevo Fred Buscaglione. Perché no? Perché no? Un disco di Fred Buscaglione, ecco, che girava. E un'altra cosa, dimmi. Voglio nominare anche Benvenu, perché anche mi sta piacendo anche quello che sta facendo. Bravo, molto bravo lui. Sì, mi piace molto l'album quello prima di 500, sì, non mi ricordo, quello Le Labbra. Le Labbra, sì. Quello mi piace molto. L'ultimo lo sto ascoltando adesso, è un pochino più... Sì. Diciamo opera unica, non so sì, come un dirti. Po' più complesso, esatto. degli orizzonti leggermente diversi, sì, rispetto agli altri, sì, due. Però lui è un artista molto interessante. Tocca a te, Diego, quello che vuoi. Beh, io direi che oltre ai vari Paolo Conte, e di André, certo, immancabili, citati. Stavo pensando appunto proprio anche riguardo alle origini del nostro ultimo album, cioè questa decisione in Rainbow dei Radiohead. Ah, però, perché quello è un album che ho ascoltato molto nel periodo in cui stavamo appunto preparando l'album, ed è secco. Ha un qualche legame, nel senso che il nostro è secco per davvero, il loro è frutto di un lavoro ulteriore, certo, sì, renderlo così secco, però diciamo che a me ha dato tantissimo, e anche noi ascoltandolo ci siamo confrontati molto su quello, anche come un'impronta di suoni. Poi vabbè, è un album secondo me meraviglioso. Posso dirti una cosa, non so se sei d'accordo, sono ritornati indietro volutamente con il Rainbow. Ah, devo continuare. No, diciamo, no, no, diciamo che i Radiohead sono stati importantissimi per tante cose, tutti noi, per tante persone, per tante cose, per tante cose. Certo. Come lo è stato Jeff Buckley. Esattamente. Jeff Buckley. E per voi Grace, un altro Grace è meraviglioso. Ma cosa ha suscitato un personaggio come Jeff Buckley, che ha cambiato un pezzo come Alleluia e l'ha rifatto da Leonard Cohen, è diventato di Jeff Buckley, anche se l'ha scritto Leonard Cohen. Cos'è che un personaggio simile, un artista che ha fatto un solo disco, che ha lasciato un vuoto immenso? Guarda, io ho avuto la fortuna di vederlo nel 94 al Vidia di Cesena. Cavolo, bellissimo. Il Vidia era riempito a metà, non era nemmeno pieno. Dopo, due anni dopo ha riempito la festa unità di Correggio, c'era finimondo, ecco. È stato uno dei più bei concerti della mia vita. Straordinario. Splendido. Uno la pelle d'oca. Con la chitarra acustica cosa può fare? Sì, ma può fare delle cose straordinarie. No, ma in tanti hanno talento, una bella voce, no? Ma è il mettere insieme. E poi vabbè, Grace, veramente. Dobbiamo dire una cosa, il DNA, da dove l'ha avuto il DNA? Uno si chiamava Tim Buckley, ragazzi, quindi un musicista strepitoso. E suoniamo, ragazzi, suoniamo. Sono le 21:53, cosa? Suoniamo? Sì, suoniamo. Allora il cornuto. Questo è il cornuto. Ah, vabbè, ok. Se non avete voglia di guardare, non raccontiamoci che il tempo non è sufficiente. Solida mezz'asta come se non avessi capito che brucherei due mele fresche. Così, senza ardire, con occhi lontani dalla reale verità. Avete sentito chi è morto? No, non è morto, è scappato, no. Ha scopato, è decisamente scoppiato. Non era stato malmenato, dove lungo la via che porta al parco chiar di luna. Dove si sogna, si spira e si guarda chi passa, chi con chi. Io sono il cornuto e sono venuto a riprendermi i CD. sul cornuto, solo lui però, solo ascoltando l'occhio liquido in fondo, sa di chi è la colpa. Ma non lo dice, anzi lo divora, nella sua pancia che è così curiosa, è tutto da rifare ancora. È troppo importante per chi poi non osa, chi scappa, chi si lascia, chi si sposa, per inventare con occhi sinceri un'altra storia verità. Ok, abbiamo sentito questa... pezzo molto ironico e volutamente, dal punto di vista musicale, assolutamente. Ti sei fatto anche male? Sì, è nell'enfasi di suonare. niente di preoccupante, chiaramente. Sì, è musicalmente molto scheletrico, volutamente scheletrico, perché doveva essere così, doveva supportare un pezzo ironico, un testo ironico, una musica così, divertente, tra virgolette, possiamo dire questo. Esatto, ma il tema del tradimento... nel nostro giorno, nei nostri giorni sospesi, viene fuori due volte. Una volta in maniera molto ironica, sì. L'altra in maniera un po' più corposa, molto drammatica. Esatto. E non so, G, se vuoi introdurre la Giuda, il cornuto si capisce, insomma, sì, certo. Cornuto, è una veste ironica. È il gioco del paese, alla fine, dove tutti alla fine, parlando e riparlando di quello che poteva succedere o quello che è successo o quello che succederà, cambia radicalmente tutto e alla fine le persone rimangono sempre lì e alla fine non è successo niente. Per quanto riguarda invece il discorso di Giuda, è un pezzo che è nato, ma forse per mie esigenze personali, poi dopo mi ricordo che sono arrivato, ho dato il testo a tutti, ho detto ragazzi qua dobbiamo fare qualcosa. Per 3 mesi non si è neanche visto, non si è neanche toccato, poi Diego si è presentato con così, ti ricordi, è nata proprio così. Sei partita con questa botta secca, perché Giuda, se l'album è secco, Giuda è ancora più secca, è partito così, il testo è... ti faccio il collegamento in base a, diciamo, alla tematica generale. Qual era il discorso? Il discorso è legato al fatto che Giuda, a un certo momento, che si è preso, diciamo, per tutti questi secoli addosso tutte le responsabilità, noi invece abbiamo immaginato che l'amore immenso di un Gesù l'abbia portato alla fine ad avere un ultimo abbraccio dopo l'impiccagione, che ci si siano incontrati, che ci sia venuto anche quest'ultimo abbraccio. Capito. Hai capito quello che voglio dire? Sì, nel senso che a un certo momento, questo secondo me nel tempo, dopo non voglio fare discorsi, però nel tempo sicuramente nella cultura popolare ha influito molto anche proprio a livello di mentalità. Cioè, l'ultimo abbraccio doveva venire e dovevano raccontarcelo, è questo che voglio dire. Ho capito. E dunque era uno spezzare una lancia per una persona che si è trovata addosso veramente tanto, perché alla fine Giuda che cos'è? È semplicemente una persona che si trova di fianco a qualcosa di veramente grande. E di conseguenza succede nelle piccole cose, succede tutti i giorni, che quando hai di fianco qualcosa di bello lo distruggi a partire dai nostri rapporti. Non c'è niente da fare, l'uomo è piccolo in quel senso lì, grande in altri momenti, ma è piccolo in quel senso lì. Quando si trova davanti a qualcosa di immenso, purtroppo scivola sempre. Certo, poi dopo forse un giorno se ne pentirà, però in quel momento lì il gioco di non lo so, mi è piaciuto, sono stato appoggiato dai ragazzi a portare avanti un discorso di questo tipo, mi sembrava... È un discorso interessante, un discorso inserito in un disco diverso dall'altro, possiamo ribadire questo. Certo. Il rosso aveva una certa tematica e questo qua le ha sviluppate o le ha allontanate, le ha indirizzati in determinata maniera. Sì, il rosso era l'amore a tutto tondo, sì, esatto. Si toccava un po' tutto, dall'amicizia alle cose, poi dopo era tutto ribaltato anche lì, però sì, qua il probabilmente è un po' un album, diciamo, scritto da disillusi, sì, nel senso che è finita un po' un'era, diciamo, di giovinezza adolescenziale, o comunque non dico che non si sogna più, però a un certo momento il sogno è quello, però la realtà è questa. siamo diventati un po' grandi. Beh, voi siete sempre più giovani di me, in ogni caso, anche siete più grandi. Sì, sì, ma guarda, ti posso dire una cosa, che ci stiamo godendo le cose molto più adesso, sì, molto più consapevole, un album bellissimo, ce lo stiamo godendo tantissimo. Io ho sentito l'entusiasmo quando ho parlato con David al microfono, al telefono sabato, ho sentito l'entusiasmo che lui aveva, che era Cesena che stavi suonando, aveva un entusiasmo enorme, e questo è positivo, vuol dire che c'era la volontà di suonare, di far sentire, di far sentire il nuovo disco, di far sentire le tematiche del nuovo disco, di far sentire le musiche del nuovo disco. Ma sai cosa, che nelle nostre serate, a me la cosa che ha accomunato sempre in tutto il nostro 11 anni ormai, sì, di musica, è che vedi che comunque le persone coinvolte prendono dai bambini ai nonni. Ah, bello, bello, questa è la cosa che a me piace sempre dire, perché è proprio così. Non vedi nel tempo, nel periodo degli agglomerati, dei cliché di persone che vedi che possiamo parlare a tutti, non che piacciamo a tutti, possiamo parlare veramente a tutte le fasce d'età, e questo secondo me è la caratteristica nostra più bella, sì, che mi proprio sento che è la è migliore garanzia per la vostra, questo band, sicuramente, per il vostro concetto di musica, per il vostro progetto. Sì, sì, bravo, questo. Bravo, bravissimo, è vero. Questo quando saremo vecchi lo racconteremo ai figli, al tuo, che ormai sarà grande, Diego, appunto, al tuo ragazzo, al tuo bambino, può diventare ragazzo, diventerà uomo, chiaramente. Abbiamo parlato di Giuda, ascoltiamola. Eh sì, magari. Certamente la sentiamo. Traccia numero 9. Ah, traccia numero 9. Adesso la sentiamo, dai, insieme. Ok. Socchiosi, con le dita lontane dallo sfero, ormai nebbioso, con gli occhi rivoltati, rivoltati. Sorrisi. Scappio le mie viscere contorte di colpa. Respirai corto e senza voltare, ad occhi al cielo, me ne andai. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sempre la vostra emittente preferita Blu Radio Veneto, stiamo ascoltando, cercando di conoscere un po' di più i Fragil Vida, ovvero Davide Merighi, Diego Gavioli, Gianluca Galletti, che sono un tre quinti della band, che ci stanno presentando il loro ultimo lavoro, Giorni Sospesi. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Vi ricordo anche un'altra cosa importantissima, che potete vederli, nel senso che potete ammirare finché suonano, finché parlano, insomma potete vedere questi artisti che sono qui presenti questa sera. Basta digitare diretta Rockwave, tutto attaccato, nel vostro motore di ricerca, nella barra, e apparirà la possibilità di, cliccando lì, di vedere questi artisti appunto in diretta. C'è Agostino Spolone, ma soprattutto c'è Maurizio Calzavara, che li sta facendo conoscere ancora di più. Allora, parliamo di questo pezzo. Gianluca ha già presentato il testo benissimo, ha dato proprio una spiegazione perfetta, e parliamo della musica. Musica molto interessante, musica che va via via via, cresce continuamente fino alla fine, una specie di roboante cavalcata, possiamo dirla così. E tu hai usato qualche strumento, avete usato, sì, qualche beh, strumento? Al di là dell'inizio un po' waitziano, diciamo un po' sincopato, un po' strano. È stato lui che ha voluto così. Ma è venuto dal giro di chitarra di Diego. Ok, vabbè, va benissimo. No, il finale invece è un po' meno ostico e inizia con questo ritmo un po' tambureggiante arabo, dove sì, Lele, molto arabo, sì, Lele suona anche il cajon, che certo, è una novità anche questa. Per noi, e dove ho messo anche un po' il tamburello, ho suonato il tamburello, e c'è questa frase finale, sì, proprio, che si chiama Neve Shalom, in ebraico oasi di pace, sì, esatto, che, è un che in d'essere. Realtà è un villaggio a 15 km da Gerusalemme in Israele, dove convivono palestinesi e israeliani, quindi è un po' un'oasi felice, perché personalmente ho molto a cuore il tema medio orientale. La mia ragazza, la mia compagna, ha vissuto là per un periodo e mi ha spiegato la situazione. Ho vissuto un po' con lei da lontano le sue sensazioni, ecco. E Neve Shalom è un po', per riprendere il discorso del testo di Gianluca, è un po' come una preghiera finale, una speranza finale. Dopo tutta questa drammaticità, questa tragedia, che può essere la storia che finisce male, ecco, sì, una storia di un'umanità addolorata, la speranza, sempre la speranza. Nei Fragil Vida, oltre che anche questo pezzo Giuda, sì, anche in Veletese, sì, Veletese, che è la prossima canzone che ascolteremo, è una preghiera. È la preghiera di un immigrato che parte con la sua barchetta dal paese dove è nato per cercare una nuova vita, un nuovo lavoro, una nuova speranza. Ecco. E Giuda ha questa caratteristica musicalmente, secondo me, che dal vivo si può ampliare a dismisura. Non ha una chiusura. C'è la chiusura, chiaramente fisica, deve chiudersi in un determinato minutaggio. Però se volete potete ampliarlo, potete andare avanti all'infinito. Questa è la caratteristica, almeno secondo me, del pezzo. Il testo ha la sua importanza, è fatto in quella maniera, però musicalmente poi, ha quella caratteristica. Poi c'è da dire una cosa. Dimmi. Che G è in mano a una grossa corda, se la vuoi spiegare. Dai, spiegami Gianluca, dai. bisognerebbe comunque vederlo, però sì, è... È sempre difficile. L'archetto non c'entra con la corda, non c'entra niente. L'archetto che c'è... no, non c'entra niente. Guido, no, il giochino no, il costume del pezzo è del Giuda, è una corda di nave, praticamente ho trovato una corda da nave dove il grosso cappio prima fa da corona e poi dopo viene esposto alla fine, quando appunto dice quando mi incoronarono Giuda, in quel momento viene tolto e poi dopo questa corda da nave, che sono 3 o 4 metri, vengono, diciamo, presi su dal Giuda e portati via come se fosse la croce, perché quella alla fine, la sua croce era la sua corda, certo, certo, alla fine, certo. Rinnegare la vita per lui è stato insomma la sua condanna alla fine. Quindi anche visivamente gli spettatori che assistono al concerto Sì, hanno quella sensazione. Esatto, hanno quella sensazione comunque di avere davanti, insomma, quello che succede è diciamo nella parte più intensa, è abbastanza vibrante, abbastanza potente del concerto. Dopo viene tutto sciolto da giorno sospeso, dopo tutta questa tensione di questo Giuda che se ne va, mentre, come dicevi tu, l'ossessivo continua, sì. Potrebbe continuare finché vuoi, sì, infatti lui è proprio se ne va, cammina. Una volta la cosiddetta jam session degli anni, esatto, 60, esatto. Non c'entrano niente con voi, però se vogliamo ricordarci le jam session più importanti, quelli di Grateful Dead, erano 5, 6, 7 ore alla grande, non vivono mai immerso. Sì, una full immerso totale. Jerry Garcia e company se ne andavano per tanti sentieri possiamo anche diciamo dimenticare. Che noi le pasticche di LSD non le diamo ai concerti, però solo le caramelle no, Diego va a tortelloni qualche bicchierino di vino c'è sempre, qualche bicchierino di vino c'è sempre. Ma anche il vostro corregionario quasi non è più, perché lui abita a Pavana, aveva sempre un bottiglione di Lambrusco, adesso ha l'acqua minerale, proprio Francesco ha una certa età adesso. Così. Guarda, è successa una cosa. Dimmi. Bellissima domenica a Bondeno, in provincia di Ferrara. C'erano tre camionisti slovacchi e durante il soundcheck li abbiamo preso bene, insomma, gli piaceva la musica, sono arrivati e ci hanno offerto un aperitivo praticamente, sì, Campari, sono venuti su loro sul palco col cabaret, hanno portato cinque maxi spritz praticamente. Ok, benissimo, sono le 22:14, dovremmo fare una cosa di questo genere adesso, dire certe informazioni, esatto, per avere la possibilità di dove il vostro sito e per acquistare fisicamente il disco, dove si può trovare. I vostri contatti. Esattamente, per i vostri contatti. Allora, i nostri contatti ci trovate su fragilvida.com, andate direttamente su Facebook, e abbiamo anche il MySpace. E, diciamo che per la prima volta, questa volta, da Giorni Sospesi in poi, abbiamo anche una vera e propria distribuzione, grazie a Audioglob, certo, e Trova Robato, e sicuramente anche ai banchetti della fabbrica, la nostra etichetta indipendente, esatto. Potete trovarli e soprattutto ai nostri concerti, veniteci a vedere, è lì che si crea la mescolanza, l'incrocio di mani, ci vedete dal vivo. Ci conosciamo di persona, quindi è il momento anche migliore per ascoltare la nostra musica e conoscerci. Ricordiamo anche quando suonate i vostri concerti. Sì. Quando saranno. Allora, venerdì 1 luglio, questo venerdì, presentiamo Giorni Sospesi alla Rocca Estense di San Felice sul Panaro. Come posto quello, eh? È un bellissimo posto. Bellissima location. Poi sabato 2 luglio saremo in Toscana. A Rio Magno di Seravezza, Circolo Primo Maggio, poi andiamo avanti, torniamo in Emilia, il 10 luglio a Campogalliano, una rassegna tiene a mente, e poi andremo in giro. Fino il 29 San Sepolcro, sì, fino 29 luglio. Sì. Tutta l'estate praticamente. Esatto, sì. Il calendario è aperto comunque. Si può avere qualche occasione, no? E comunque sul sito c'è scritto tutto. Quindi dal punto di vista fisico si chiede l'etichetta per avere il disco vostro, e gli altri dischi precedenti si può richiedere sempre l'etichetta. Quello è un po' più difficile. Ah, un po' più difficile. Quello ce li abbiamo noi. Avete voi però... personalmente. Nei concerti. Ho capito. Nei concerti la cosa divertente che non è ancora saltata fuori è che si possono trovare questo album che tu vedi. Quello nuovo, sì. Quello nuovo. Fai vedere alle telecamere, te lo inquadrano. Eccolo qua. Bene. Aspetta che la Chiara ti sta posizionando. Alzalo un pelo. Ecco. La tecnologia moderna anche questa, mi pare giusto che sia così. Si può fare un po' di pubblicità. Mica niente di chiaro. Male. Esattamente. Ci siamo divertiti a proporlo anche in modo diverso, per rendere, dato che il CD ci dicono tutti che è obsoleto, le cose. Noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo reso unico, perché c'è un gioco che viene dalla costruzione dei costumi, dalle proposizioni delle scenografie, e soprattutto quando siamo in teatro lavoriamo anche molto con le scenografie, e lavoriamo con materiale di recupero. Ah, ho capito. Cioè, riutilizzate cose. Esatto, abbiamo usato pezzi di lavatrici, abbiamo usato delle porte, tutto naturalmente ha un senso, eh? La cosa divertente è che la roba da recupero, ecco, trova, roba da recupero, esatto, anche esatto, trova un altro senso. Certo. Ok. Le lavatrici diventano dei trampoli, delle palline diventano una barba, e cose di questo tipo. Ecco, noi ci siamo divertiti a rendere unico Giorni Sospesi in questo modo. Abbiamo fatto una tasca. Adesso la chiave ve lo inquadra. Eccoci qua. Abbiamo fatto una tasca dove dentro c'è il CD, dove dentro c'è tutto quello che trovi in quello normale, solo che tu dovrai scegliere la tasca, perché ogni tasca sarà diversa una dall'altra. Ah, bello, bellissimo. Tutte diverse saranno, dunque è una copia unica, per dire, boh, ho una piccola operetta d'arte. È simpatica comunque, se la state vedendo. Ringraziamo soprattutto Laura Bergamini, che ha fatto Lola, che è lei la vera sarta. Sì. Ciao Laura. Quella Laura che ha lavorato, è stata strepitosa. Che ha fatto queste idee, ha avuto tutte, queste idee. Tutte a mano, sì, le ha fatte lei. Bravissimo, bravissimo. Ok, visto che sono le 22:19, io proporrei, se ce la facciamo, di sentire dal vivo, il pezzo che ho scelto per gli ultimi 20 giorni da trasmettere. Dopo metteremo su altri pezzi, però io ho scelto prima Giorni Sospesi, che era non è proprio il singolo, a me è piaciuto molto, e poi adesso questo pezzo che è molto bello, molto delicato e dedicato, delicato e dedicato, vero David? Esatto, una dedica speciale a Diego, mio bimbo di 20 mesi, e questa è ottobre. Ok. Sento bene di quel fatto nel nulla di una triste giornata in colore. Sento bene quando i rami degli alberi spogli fan pensare a mani tese al cielo, scarne dita naspanti in cerca di luce e di stelle filanti che non trovano mai pace. Ottobre. Ottobre. Io mi sento bene quando penso come stavo male all'asilo con le suore. Mi sento bene quando in certe sere di tempesta ex marito e moglie fanno festa e poi sembrano camminare insieme. Sì, davvero sembrano volare insieme. Ottobre. Posso dire una cosa? Pezzo bellissimo. A me fammelo un'altra volta il suono che faceva con l'ukulele, ukulele e con l'archetto. Mai successo, mai visto una cosa simile, molto interessante. Vai, vai. Ma chi è Eddie Vedder? Chi è Eddie Vedder? Sembra un violino. Ok, stiamo scherzando, però insomma è una cosa molto bella, molto delicata, molto interessante. Come mai questo uso dell'archetto assieme a questo strumento, Diego? Ma la motivazione, non c'è una vera e propria motivazione concettuale, semplicemente mi sono trovato con un archetto e con un ukulele e ho provato a fare un po' il suono. Le due cose ed è venuto fuori un suono che mi ha convinto stranamente fin da subito, nel senso che non si direbbe. È un suono che ha un suo corpo e che alla fine anche dal vivo rende molto bene, quindi dopo l'ho registrato e la registrazione è così come l'ho suonato in questo perfetto. Momento qua, fatta in una stanza che abbiamo registrato in una casa di campagna e c'era questa stanza che aveva un riverbero tutto suo e io ero al centro della stanza e quindi il suono è proprio dello strumento con l'archetto, quindi non c'è nessun tipo di effetto a parte se non il riverbero naturale dell'ambiente. Certo. Dobbiamo dire che il pezzo era, cioè il suono, questo suono era inserito perfettamente nel pezzo che ha suonato David al piano. Era incastonato ad hoc, doveva essere così, un po' decadente, possiamo dire romantico, decadente, anche se dedicato a un bambino, però un po' decadente, bello però, ha un certo senso e una certa ora della giornata. Cosa dici, Gianluca? Sì, assolutamente. Ma guarda, alla fine è divertente, cioè queste sono le cose, quando si parla, praticamente succede questo, quando si dice che si gioca e si sperimenta, questa è una delle cose che è successa. È successo che Diego si è divertito a comprare il Gacken. Che cos'è il Gacken? Ma è una cosa meravigliosa. È una cosa, io farei un album solo con un Gacken. È un piccolo sintetizzatore giapponese che uno può comprare. Eccolo qua, è qua dentro. È una storia, esatto. Me lo fanno storia vedere. Bellissima il Gacken. Eccolo qua. Gacken, sì, c'è scritto proprio Gacken. Sì, si chiama così. Pensavo fosse inventato. No, facciamo vedere a Chiara. Chiara, l'hai visto? E non solo il Gacken, ha usato anche un piano giocattolo anche splendido che non abbiamo portato. Peccato. Sai, mi ricorda il piano giocattolo, non so se conoscete un gruppo che si chiama Toys Orchestra. Sì. E ha sempre i primi dischi, cioè il primo disco l'ha fatto totalmente con strumenti giocattolo. Poi il secondo, lo stesso poi più ampliato, però prima era fatto completamente con strumenti giocattolo. Sono italiani, sono delle Marche. Sì. Ma come mai avete l'idea di questo strumenti giocattolo? Dà una sensazione diversa dagli strumenti normali oppure così? È una vostra... O per semplice divertimento. Ah, per semplice divertimento, ok. Anche... Non dimmi. So. Vai pure, dimmi. No, c'è da dire che comunque gli strumenti giocattoli hanno comunque... tirano fuori delle sonorità che non sono quelle degli strumenti in commercio. Quindi comunque se cerchi qualcosa di... Cioè il punto di partenza alla fine è un po' il giocare, nel senso di cercare e poi scoprire e stupirti te stesso di quello che può saltare fuori mettendo insieme un ukulele, un archetto oppure un piano giocattolo, eventualmente con un effetto. Sì, esattamente. E quindi è comunque sì una questione effettivamente di gioco e ricerca. E lo sito giustamente al discorso iniziale che faceva Gianluca prima all'inizio di trasmissione, proprio questo disco anche di gioco, di apertura del giocare. Giocare in una certa maniera, chiaramente, tra virgolette. Le regole del gioco. Le regole del gioco. Ecco il gioco è sempre visto in modo anarchico, invece la parola giocare parte dal presupposto che ci sono delle regole ben precise, cioè questo è importante. Quando si dice che i bambini imparano giocando è legato al fatto che i bambini devono avere delle regole. Questo, scusami. Adesso, no, è giusto. Perché è giusto che sia così. Tengo a precisare, perché alla fine il giocare, non vogliamo che ci immaginiate tutti sporchi di creta in mezzo a sedere uno davanti all'altro culo nudo che ci no. Io per esempio mi sono divertito per la prima volta a giocare con un meraviglioso strumento che è il Fender Rhodes. L'ho trovato, i ragazzi della Igloo Audio Factory l'avevano lì, me l'hanno accordato e provato, per dirti in Mario Camino Veletese ho usato il Fender Rhodes. Bello, molto interessante. È un gran bel suono, un bel strumento, vero? Che amo. Io proporrei una cosa, sono 22:28 adesso, Veletese lo possiamo sentire, mi pare che avete scelto come da scaletta, e poi suoniamo qualcosa d'altro e poi finiamo, ok? Veletese è un pezzo che spinge, attenzione. Bene. Che spinge? Spinge, boom. Boom. Vabbè, lo sentiamo, vediamo. Ok. besoin de culture et de droit pour amener la paix entre les peuples. Sogni sta il credo, che sognare sia degno del cielo, e volare, volteggiare, solare, esercizio del cuore corale, intonare eternità marine, sospesi giochi per sorridere dei sogni, compagni di animi adornati di carnevali e coralli, di granelli dorati, dai mille sorrisi che compongono un sole inconscio, del dì e della notte per sempre elevato, a rischiarire il cuore, ad animare col suo calore por el tu camino. Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, sono le 22 passate da 32 minuti di questo martedì 28 giugno 2011, ma noi siamo ancora qui perché abbiamo deciso di stare in compagnia dei Fragil Vida fino alle ore 23. Sì, perché Paganini non ripete, ma stavolta i Fragil Vida, hanno deciso di ripetere, quindi stanno più, di più delle 10 e mezza. Tutto là. Grazie ancora dell'invito. Beh, grazie a voi che siete venuti direttamente da... con furore musicale, possiamo dire questo, da... se ci è consentito così per ridere, per scherzare. Parliamo un momento musicalmente di questo pezzo, a forza. Del testo ne ha accennato Gianluca, ma lo può anche ampliare Gianluca se vuoi. Il discorso cosa? Di Veletese. Di Veletese. Esattamente. No, Veletese ne parli tu, David, che l'hai scritto tu, eh? Te la mettersi senti? Nei panni di un immigrato, appunto, che non in maniera polemica, proprio con la speranza di trovare una nuova vita. Quindi, ma com'è mettersi lì a dire, boh, cosa c'è, un paradiso dall'altra parte, cosa succederà? E questo è il giochetto. Perché ti ho detto prima che il pezzo spinge? Il pezzo spinge perché a un certo momento quello che mi dà questo pezzo è proprio un'apertura, una spinta. A parte che lo trovo estremamente, estremamente radiofonico e sì, anche un pochino sensuale, ti dico la verità, c'è un pochino di... sinuoso, sì, c'è un pochino... sen barra sessuale, devo dire la verità. Ha messo, però... Franza ha giocato anche un po' sul giro del basso, sì, il giro un del po', basso un giro, abbastanza giro disco music, sempre un po' di faccheggiante, sì, tra parentesi 70. Possiamo dire così, dai. Esatto, e dunque insomma sì, Veletese spinge. Una cosa, il testo l'ha fatto David, ma hai partecipato, Gianluca, all'idea del testo o è una cosa? No, quello è nato e concluso con David. I pezzi dove abbiamo collaborato di più sono stati il Cornuto, che l'ho scritto io, ma David ha messo a posto. Archivi di Pietra. Archivi di Pietra è stato scritto, ci sono le due parti, i due tronconi, dove David canta e io recito, che anche lì ci siamo un po' sporcati le mani insieme. Sì, però succede abbastanza. In questo album qua è successo in effetti con molta disinvoltura, sì, proprio. Capito. Molta copartecipazione. Sì, sì, sì. Sui testi era già successo nell'album rosso, ma adesso è venuto proprio in modo molto, come ho detto prima, molto disinvolto. Quindi molto... gruppo in tutti i sensi, cioè proprio. Sì, sì, assolutamente. Comunione di intenti totale. Non c'è nessun tipo di gelosia, di cose, cioè tutto quello che viene portato è... deve rendere, punto. Cioè, a me quello che è sempre piaciuto dei Fragile Vida è che quello che si sta facendo deve rendere, cioè deve arrivare al massimo, deve rendere il massimo. Dunque, se c'è da togliere qualcosa che ho messo io o da modificare, vediamo come, perché si arriverà lì, capito? Questo secondo me è fondamentale. Benissimo, 22:35, Agostino. Cosa vogliono fare? Sì, loro? Devono cantare, suonare, perché chiaramente l'impronta. Adesso siamo passati a Rock Wave, praticamente, da Radio Sera. Eccoci a Rock Wave! Non cambia assolutamente niente, perché la dimensione è sempre quella: suonare, cantare, parlare, trovare. Un pezzo, una volta negli anni 60 c'è Suonare, Cantare, ti ricordi? Era un pezzo di Paolo, di Leano Morelli. Negli anni 60 David non era ancora nato. Siete molto giovani, chiaramente. Gli anni... Odio l'estate. No, quello è di Bruno Martino, che va Bruno Martino. Esattamente. No, era Leano Morelli, era anni 70 più che anni 60. E dava proprio l'idea dell'essere uniti, di cantare e suonare, di stare assieme. Una volta si stava assieme sulla spiaggia con la chitarra. La canzone del sole l'hanno suonata tutti, vedo Diego, anche confermi. No, sì, non confermi. Sì, sì, tanti miei amici. Io non l'ho. Non l'hai mai suonata? No, sulla spiaggia no. Ah, sulla spiaggia no. Ok, cosa suoniamo a proposito di questo? Allora? La prima canzone che abbiamo scritto insieme con i Fragile Vida. Bene. Nera Cera. Molto bene. Insieme volteggiavano bene, azzurri cieli indossavano liete candele. Luce da mattina e alti di cera, una brutta cera nera nera, una brutta cera nera nera. Albezza si moltiplicano luce e sguardi, argilla si moltiplicano voci e sguardi, leggermente dilatati, leggermente dilatati. Per coi cipri cari battiti, muovono passi raddoppiati. Guarda come son veloci, guarda come son veloci, veloci, veloci, feri qua giù. E le fatte ombre cedono il passo imperioso, luce in testa, refrigerio e resa. Muori di tristezza lesa, e si eleva al cielo grigia e pacificata, anima di cera nera nera, anima di cera nera nera. Questa c'era un'ettare d'amore, corvo di carbone, sciogliti nel cuore, fai di questa c'era un'ettare d'amore, corvo di carbone, sciogliti nel cuore, fai di questa c'era un'ettare d'amore, corvo, corvo di carbone, sciogliti nel cuore, fai di questa c'era un'ettare d'amore, amore, amore, un'ettare d'amore, amore, amore, amore. C'era un ettare d'amore, un carro di carbone, c'era un ettare d'amore. Mi lasciati sorprendere dal gusto incantevole del desiderio, lasciati sorprendere dal gusto piacevole del tuo sogno. E da quel bel caldo Roma, Roma, e da quel bel caldo Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma. Carbone, sciogliti nel cuore, fai di questa c'era un altare d'amore, corvo di carbone, sciogliti nel cuore, fai di questa c'era un altare d'amore, amore, amore, un maledetto amore, un altare d'amore, amore, amore, un maledetto anche l'applauso ti sei fatto. Bravissimo, bravissimo, bello, bello questo motivetto simpaticissimo, insomma. Molto molto schematico, veloce, accattivante, con la melodia proprio al centrale, poi riprendeva, poi se ne andava, poi riprendeva, poi se ne andava, volutamente così. È una caratteristica di 10 anni fa, però può essere una caratteristica anche di adesso, non cambia. Sì. 10 anni fa mi divertivo tantissimo a giocare con le rime, con le parole, anche un po' così, per puro diletto. Sì. Anche poi si cresce, sì, si cambia. Ha scritto tanto, si anche migliora, ha scritto anche tante poesie. David. Bene. E niente, no, Nera Cera l'abbiamo fatta proprio perché erano agli albori, i primi Fragil Vida erano, se vuoi, più sperimentali, sì. Poi un po' più popolari, adesso un po' più raffinati, dai. Più raffinati. Esattamente. No. Sempre si diciamo cresce, così. Si cresce. Sì. Però siete più raffinati, però certi dettami di una volta li avete ripresi, li avete sviluppati, li avete allargati, però con le nostre culture, certo, che sono sempre spuntate fuori, ecco. Una cosa storinale, i dischi li avete tutti autoprodotti voi, mi pare. O no? Tutti a parte questo, a parte Giorni questo, Sospesi, a parte questo. La fabbrica sì, ha contribuito notevolmente, dai. Ah, sì. Possiamo, è una bella cosa, però arrivare sì, beh, guarda, a dare una mano, una grossa mano, dai. Salutiamo Giovanni che probabilmente ci starà ascoltando stasera, è il nostro booking man, cioè ci trova le date e G, se vuoi. Ma guarda, io l'unica cosa che devo dire è che l'unica, la caratteristica fondamentale del nostro rapporto fra la fabbrica e Fragil Vida è che la carta bianca a livello creativo noi l'abbiamo, ma bianca, tutti pulita, sì, linda. Sì, sì, sì, non ci sono costrizioni. No. Loro hanno creduto, noi siamo partiti 3 anni fa con il progetto insieme alla fabbrica, legato soprattutto alla all'organizzazione, diciamo, delle date. Hanno aperto tanti fronti, abbiamo sfondato il sud, diciamo, insieme. Siamo arrivati soprattutto in Salento, bene. In Campania, siamo arrivati giù in Calabria e anche in Basilicata. Abbiamo fatto anche il teatro di Taranto, bellissimo. Il teatro di Potenza. Diciamo si è allargato il cerchio, dunque la collaborazione è avvenuta, direi, quasi naturalmente, perché comunque la nostra fiducia è legata al loro modo di lavorare. Certo. E loro ricambiano quest'album qua, Giorni Sospesi, loro l'hanno ascoltato praticamente quasi finito. Ho capito. E dunque questo tu hai detto che sei stato anche in Salento. Secondo me il Salento può avere una correlazione, un trait d'union con la vostra musica in alcuni momenti. Sei d'accordo, Gianni? Io sono d'accordo per un motivo semplice. Sì. Uno dei motivi, anzi, è legato al fatto, quello che si diceva prima. Quando tu sei sul palco e richiedi partecipazione, comunque di sentire quello che... c'è molta Salento, risposta, certo. molta curiosità, certo, sulla musica. La gente esce ancora per i concerti, esce perché c'è il concerto. Questo succedeva a Bologna negli anni 90, adesso succede molto meno, secondo me, nelle nostre zone. Parlo di quello che io ho visto, certo, da ragazzino e quello che sta succedendo adesso. E la stessa cosa insieme a Salento metto a fianco, perché ho avuto una piacevole sorpresa, la Romagna. Ah, ho capito. Sì, Cesena ci ha ricordato 4-5 anni fa, abbiamo suonato spesso in Romagna, ci siamo ritrovati a Cesena e devo dire la verità, l'atmosfera, la situazione in punti diversi messi insieme è sempre quella. C'è la curiosità di ascoltare, c'è l'attenzione. C'è anche la curiosità che il vostro non è un progetto normale nel senso positivo del termine, è un chiaro progetto articolato, e quello c'è, cioè anche quello, sì, quello. Sì, ma infatti quello è... Ma guarda, prima non scherzavo quando ti dicevo che la struttura della scaletta è fatta in modo che al secondo o terzo pezzo tu puoi decidere se andartene o no, perché è un impatto che dici, boh, o mi incuriosisce o proprio questa roba qua a me non piace. Bene. L'abbiamo fatto abbastanza intenzionalmente da poterci permettere di andare avanti questo progetto. Un rischio calcolato, allora. Sì, sì, assolutamente. Okay. Secondo me è anche giusto così, per rispetto verso le persone. Certo. Devono capire che la situazione può procedere in un modo più o meno imprevisto. Comunque si va su questa strada qua, attenzione. Posso chiederti una cosa, David? Ho visto che hai portato un tuo progetto, che è un progetto un po' fuori della band, praticamente. Un progetto che si chiama Eleven Fingers. E io questa sera ho portato il nostro primo EP, ci sono 5 brani. In realtà è uscita per il 20 maggio, è uscita per l'etichetta In The Badal Records, che è un'etichetta padovana, di Montagnana. Sì, sì. E il disco si chiama To Remind You, per ricordarti, e l'abbiamo dedicato interamente all'attivista Vittorio Rigoni, scomparso. Tristemente scomparso a Gaza. E, no, è un progetto dove cantiamo in inglese, un po' più indie, e c'è anche una ragazza che si chiama Anna che canta molto bene, secondo me. E dalla prossima settimana riuscirete tutti a vedere il video su YouTube, grazie a Diego dei Fragile Vida ci ha girato, è il regista del video, che della canzone che dà la traccia del Tour Mandio. Ho capito. Quindi un progetto, tu hai un progetto parallelo, cioè hai sviluppato. Sì, io e Lele, anche il batterista. Invece Gianluca non fa niente. No? Gianluca fa le foto, ha fatto le foto. Quindi è comunque, quindi la famiglia è sempre quella. La mescolanza, il circolo musicale è sempre quello, lo salutiamo anche. Certo. La nostra palestra musicale, circolo musicale da Tobi. Siamo fieri e orgogliosi di esserne parte, anche fondatori, se vogliamo. Dimmi. Il progetto di cui sta parlando lui è il Circolo Culturale Lato B, praticamente è stata presa 25-30 anni fa. 23 anni fa. È stata presa una scuola elementare, la mia, sì, tra l'altro. La nostra. È vero, c'eri anche tu, è vero. Sono diventate tutte sale prove. Ah, bello. Però a livello comunale, tutto a livello comunale, dunque questo permette, diciamo, di tenere i prezzi veramente molto bassi, e di conseguenza abbiamo, diciamo, un 180 persone iscritte più o meno. Bello. Che ruotano, e dunque tanti gruppi sono sviluppati e i ragazzini si ritrovano alla musica in casa, e questo è molto importante tenere in di conto, perché adesso i gruppi musicali stanno, abbiamo dei tredicenni che stanno, abbiamo il primo maggio dalle 2, dalle 14 alle 19 erano solo gruppi di minorenni, di ragazzini fino ai 17, hanno suonato solo loro. Belli, questo bellissimo. È meraviglioso, bellissimo, meraviglioso. Bellissimo. Sì. Progetto strepitoso. 22, 48, 49 Agostino, cosa facciamo? Facciamo chiedi, suonare chiedi a loro, io come vuoi, se loro vogliono suonare, se loro vogliono ascoltare la canzone, come volete voi. Mettiamo sulla traccia numero 10 e facciamo così, mettiamo sulla traccia e poi terminiamo suonando, dai. Che si chiama Archivio di Pietra, e dove ha cantato insieme a noi un nostro carissimo amico Nicola Pellegrino, in arte Nicodemo. Questo certo. È Archivio di Pietra. Perfetto. Ok. Grigio sulle teste di ragazzi muti che non chiedono aiuto, sono vivi. E quel senso di compimento che stringe lo stomaco, stretto, un pugno in bocca nel buio. Piove grigio ai margini non illuminati, un orgoglio incandescente di rabbia. Svalutami la vita, non le radici. Napoli è dentro. Respiro a fatica anche per il senso insopportabile da raccontare. Figuriamoci da vivere, dentro, pulsa dentro. marmo inattaccabile dalla pioggia. Respiri e tutto il sospeso crolla, pesante, non pensante, il dubbio non perdona. La poetica di vita scritta da chi? Mito, brucia fiato antico, a ricordare della terra, la terra di dentro. Le radici delle lapidi raggiungono ormai i piedi vivi di ragazzi muti, ignorati ma rispettosi. Velati celano pudore davanti alla coscienza recitata a soggetto, che diventa ventaglio di vissuti vorticosi, come bandiere nell'aria, come simboli reali, indiscutibili. Così, su di un'unica e cocciuta strada, la nostra storia camminando si impolvera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, abbiamo finito, ragazzi. È una cavalcata che è durata 2 ore. Abbiamo cominciato alle 9:05, sono quasi le 23. Quindi, insomma, è stata una cosa molto bella. È stata l'ultima. Sì, facciamo l'ultimo pezzo d'addio, Davide. No, dicevo, se volevano ascoltare anche l'ultima, il trenino. Andando. Ah, volete sentire anche l'ultima? Cosa dite? Volete. Facciamo così, sentiamo un momento l'ultima e poi salutiamo col live assoluto per concludere in bellezza, ok? Ok. Il trenino andante allegro. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci, sì, ho messo a posto gli occhiali, occhiali non arrivavano. Qualche secondo, sono un po' vecchio, sapete. Sì, un po' tanto. Un po', grazie, molto gentile. Dopo facciamo i conti, sì, la trasmissione, sì, finita. Certo. Ok, cosa possiamo dire, Agostino? Noi siamo stati molto soddisfatti, erano venuti anni fa, però vedi, erano venuti anni fa, però la voglia di ritornare è stata forte e sono ricomparsi questa sera in modo molto intelligente, piacevole come sempre. Allora la musica molto intelligente, articolata, come ha detto Gianluca, è un gioco musicale tra gioco, teatro, manifestazioni, un po' di tutto, è un messaggio diverso, un com'è, progetto diverso. Com'è il proverbio, Maurizio? Non Dimmi. C'è due senza tre. Non c'è due senza tre. Quindi il terzo disco ci... No, è più di un... Il terzo appuntamento. Vi aspettiamo qui? Certamente. Beh, assolutamente. Quando volete. Grazie di cuore, è stata una chiacchierata bellissima. Maurizio conoscevamo già e... È sempre un bel incontro. Grazie Agostino. Grazie Chiara, che ha fatto le foto e ci ha ripreso. Esattamente. Via. Ha fatto la regista. Abbiamo le webcam sempre aperte adesso, quindi potete anche vedere gli artisti. Speriamo di fare un bel CD anche il prossimo. E questo era molto bello. E tornare a non riprendermi la cerchia dietro, a far andare la videocassetta. E sei senza capelli, non ci sono, non sono problemi. Nei fraticelli, sono tutti originali. Sono tutti i tuoi originali. Sì. Appunto, non ci sono parrucche e altre cose. Allora, noi ci salutiamo, ci lasciate con che canzone? Vi salutiamo con un brano che è in Musicanti di Cristallo, il nostro secondo CD. Sì, esatto. Questa è una tarantella. Ottimo. Maurizio, noi ci sentiamo, ci vediamo con te giovedì. Sì, allora io do l'appuntamento per quanto mi riguarda giovedì alle ore 21 con Amélie, che verrà a trovarci dalla zona di Milano, con tastierista, chitarrista, verrà a fare uno spettacolo qui, spettacolo live in acustico dalle 21 alle 23, già ve lo anticipo, con la sua nuova produzione che si chiama semplicemente Amélie. E niente, sempre qui a Blu Radio Veneto con te. Perché sì, ma io ci sono anche domani. Io ci sono domani con Michele Toson, con Liprando, che è un musicista milanese molto interessante, molto articolato anche lui, musicalmente parlando. Tra l'altro, ragazzi, Amélie vi saluta perché vi sta ascoltando. Ciao Amélie. Ecco. Va bene, allora vi lasciamo con la canzone dei Fragile Vida che si intitola Na Tarantella. Ciao ragazzi. Ciao. Ui, soppulisci. E non pesce in cappa senza luci. Ui, voglio, ora 5.000 oli. Ancora fotte dagli euro in accinte 5.000 oli. Ui, voglio. Tengo un banco di pesce che mua e lui papà. Ma si sto cago cazzo tu menestrella ne fornisce da cantà. Che cazzo vendi? Oi, voglio fornisce da cantà e votti in affaticaria. La mattina sera è sempre stare ranca. Tene a caso te facce da faccia tanti schia. Sa spiscia pausa. La Steffa è malagna. Sa pezzeria è pericolosa. Sa fatte troppo malame. Napoli è sorda. Oh, speranza per una tarantella per campa, la speranza per una sole se volte in tu mare per chiagnere come un creatore come che ora sta per affuna, sole se volte in tu mare per chiagnere come un creatore come Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.